Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati a 42 La Risposta. Ritorniamo oggi con la rubrica Riscoperte, in cui vi parliamo di libri dal passato, ingiustamente dimenticati, da poco ritornati in libreria, ritradotti, ripubblicati. In studio oggi siamo Silvia e Oliviero. Ciao Oliviero. Ciao a tutti. Ciao Silvia, che libro abbiamo qui con noi? Lo anticipo, è un libro che abbiamo amato molto ed anche un libro di cui è difficile parlare. Sì, non è affatto facile parlarvi di Sotto il Vulcano, un magnifico libro di Malcolm Lowry. È un libro così denso, immenso e complesso, e per cui abbiamo anche un certo senso di riverenza, che è poi quella che si riserva ai grandi libri. Abbiamo deciso di riaprire questa stagione con un grande classico dimenticato, venerato, ma anche abbastanza sconosciuto alla gran parte dei lettori. Eppure è un libro che oggi è considerato uno dei capolavori della letteratura mondiale del Novecento. Sotto il Vulcano è stato pubblicato nel 1947 negli Stati Uniti, è stato tradotto per la prima volta in Italia nel 61 per Feltrinelli, con una splendida traduzione di Giorgio Monicelli. E proprio quest'anno, nel 2018, questo capolavoro ritorna in libreria in una nuova traduzione a cura di Marco Rossari e sempre per Feltrinelli. Oggi vi leggeremo parti tratte invece dalla prima edizione italiana, quella che abbiamo letto noi nel corso degli anni. Due catene di montagne tagliano la Repubblica approssimativamente da nord a sud, formando tra loro tutta una serie di vallate e di altopiani. Sovrastando una di queste valli, che è dominata da due vulcani, sorge a 2000 metri sul livello del mare la città di Quanahuac. Si situa a sud del Tropico del Cancro, esattamente sul 19° parallelo. Inizia così il primo capitolo del libro, ambientato il 2 novembre del 1939, nel giorno dei morti, mentre gli altri 11 capitoli si svolgono tutti interamente in un unico giorno, sempre il 2 novembre, però dell'anno precedente, quindi nel 1938. Beh Silvia, quasi esattamente 80 anni fa. Una grande coincidenza, insomma, che cada proprio in questi giorni. Dicevamo, siamo in Messico, nella città di Quanahuac. Molti dicono che sia inventata, invece altri dicono che Cuernavaca, che è esattamente dove Lowry visse qualche anno, in Messico. E la storia viene introdotta da questo primo capitolo iniziale, in cui vediamo Jacques Laruelle e il dottor Vigil, che ritornano con la memoria alle vicende avvenute esattamente un anno prima, quello stesso giorno dei morti, in quella ultima giornata drammatica che vede la discesa agli inferi, nel tormento, nel delirio alcolico e nella disperazione dell'ex console britannico Geoffrey Firmin, incapace di perdonare la moglie Yvonne che l'aveva lasciato ed ora, dopo un anno, è tornata da lui. Prima di addentrarci nella storia che l'autore stesso aveva definito una divina commedia ubriaca, è importante dire qualcosa sulla struttura del libro. Allora, è diviso in 12 capitoli, come le ore del giorno, i mesi dell'anno, come le aspirazioni spirituali dell'uomo secondo la Cabala. È chiaro fin da subito l'impianto fortemente simbolico che ritroviamo non solo in questa struttura, ma anche in una ricchezza infinita di citazioni e rimandi letterari, filosofici, culturali di ogni tipo. Ritroviamo la Bibbia, Dante, l'esoterismo, la simbologia del mondo animale. Incontriamo galli, scorpioni, cavalli, uccelli, serpenti, cani. I richiami alla letteratura modernista d'inizio Novecento e a quella marinaresca. Sì, infatti risuona un eco dei grandi della letteratura come Melville, Conrad e Joyce. Ricordiamo, Lowry si era imbarcato a 18 anni prima di iscriversi a Cambridge, in un lungo viaggio per mare fino alla Cina, e aveva anche ereditato questa passione per la letteratura, diciamo, prima marinaresca, dal nonno, che era un marinaio, un vero lupo di mare. A tratti possiamo infatti ritrovare non solo, come dicevi tu prima, la simbologia, ma chiari echi del misticismo e della scrittura maestosa e solenne di Melville. Il tutto a creare un caleidoscopio affascinante, complesso, in cui vengono riflessi un po' tutti i flussi di coscienza dei personaggi, di cui vediamo i vari punti di vista nei diversi capitoli. Sì, c'è tanto materiale diverso. A proposito di vulcani, un magma onirico denso di storie, emozioni, ricordi, flussi di coscienza, ostacoli dell'anima, tormenti e sentimenti che attraversano i personaggi, e in particolar modo il protagonista, Jeffrey Firmin, e lui a compiere appunto il viaggio delirante, onirico, ubriaco, in una discesa, in una caduta dal giardino dell'Eden all'inferno. Lanciamo il primo pezzo di questa puntata tutta dedicata sotto il vulcano. Vi facciamo ascoltare i Bonobo con una bellissima canzone, Stay the Same. Del maledetto cammin di nostra vita mi ritrovai. Noi diremmo in una sbronza oscura, dicevi prima Silvia, che sotto il vulcano di Malcolm Lowry è una sorta di divina commedia ubriaca. Sì, infatti il grande protagonista di questo libro è senza dubbio l'alcol, che diciamo non è altro che un mezzo per amplificare il delirio della coscienza del console, un mezzo sì per l'autodistruzione, lo svisceramento, lo sprofondamento nei propri abissi, ma anche in un mondo segreto, intimo di è anche l'allegoria di un mondo sul baratro della Seconda Guerra Mondiale, ma magari su questo torneremo più avanti. È anche un percorso sul crinale dell'abisso attraversato dallo stesso Lowry, che ebbe comunque una vita costellata da alcol, la instabilità emotiva, molti eccessi e tanta insicurezza. E infatti nella figura del console possiamo rivedere molti aspetti autobiografici di Lowry: la dipendenza dall'alcol, il delirium tremens. Pensa, si racconta che a causa di questo delirium tremens non riuscisse ad allacciarsi le scarpe o che facesse comunque battere a macchina i propri manoscritti dalla moglie a cui dettava i suoi libri. Sì, e nella sua vita troviamo anche la sofferenza psichica, gli elettroshock, gli internamenti fino alla morte prematura, dovuta a ingerimento di 50 pillole di sonniferi, a seguito di un litigio proprio con la moglie a causa di una bottiglia di gin. Il tormento del console è lo stesso rigamento dell'anima sperimentato da Lowry. Oh Jeffrey, perché non puoi tornare indietro? Dovrei continuare così, sempre così, a camminare in questa stupida tenebra, anche ora, là dove non posso raggiungerti. E quindi c'è l'amore, lo dicevamo prima. L'amore pervade tutto il libro, talvolta come una minaccia, altre volte come una speranza di redenzione. Ed è infatti l'amore che apre e chiude il libro, rispettivamente lo troviamo nel primo e nell'ultimo capitolo, questa frase che ritorna: non se puede vivir sin amar. Appunto, diciamo prima, l'amore tra il console e la moglie, ormai la ex moglie, Yvonne, che si è spezzato e non riesce in nessun modo a riaggiustarsi, il tutto in una incapacità frustrante di comprensione. Si fronteggiarono reciprocamente come due fortezze che non comunicano. Appunto questa incomunicabilità e anche l'impossibilità di ripristinare in un qualche modo il rapporto. Lui così divorato da un oscuro senso di colpa e lei incapace di salvarlo dall'autodistruzione dell'alcol e della disperazione. Dice il console: ho testardamente lottato contro il mio amore per te, non osavo soggiacervi. Un sentimento di cui Lori non ha paura a parlare. E c'è da dire, come molti hanno detto, che lui sa usare parole come cuore, amore, emozione, con tale onestà che gli è impossibile cadere nel facile sentimentalismo. E non si tratta nemmeno di una sofferenza compiaciuta o neanche di pietismo, vittimismo. È un amore come quella roccia millenaria nella Sierra Madre, spaccata in due, che trovano lui e Yvonne su Caie Nicaragua. Firmin, già sbronzo dalla sera precedente, si chiede come sia possibile mantenere in vita le due parti separate della roccia, dopo che il fuoco violentemente aveva distrutto l'intero. Perché in virtù di qualche capricciosa taumaturgia geologica non si potevano ancora saldare insieme i pezzi? E appunto parlavamo di incomunicabilità e di muri di silenzio e lanciamo un pezzo bellissimo di John Mouse intitolato appunto Wall of Silence. Bentornati in studio, siamo a 42 La Risposta, vi stiamo parlando di Sotto il Vulcano di Malcolm Lowry. Dicevamo prima dello stacco musicale, il tema centrale è l'amore, che tormenta, non si aggiusta, ma anche fiumi di alcol, tutto il libro costellato da mezcal, tequila, whisky. Devo dire che io personalmente, la posso dire anche voi lettori se leggerete questo libro, alla fine del libro si ha la vivida sensazione di una grandissima sbronza che ti sembra proprio di aver sperimentato durante la lettura, ti pare di averla vissuta tu in prima persona e anche di subirne poi postumi. Tutto questo poi appunto i vulcani, il vulcano del titolo, due vulcani sono testimoni solenni solenne di questa infinita giornata dei morti, il giorno per cui una volta l'anno i morti tornano a vivere. Quindi questi vulcani con la loro imponente presenza all'orizzonte, la loro potenza, il magma, il fuoco, c'è questa terra che vomita, un flusso devastante insieme anche un mistero profondo della vita. Sono osservatori divini, spesso silenziosi, a volte tumultuosi, rumorosi, implacabili. E poi c'è la guerra imminente, la seconda guerra mondiale. Sotto il vulcano ha mille interpretazioni e mille piani di lettura. Uno tra questi è il piano dell'allegoria, la discesa agli inferi, lo stato perenne di non lucidità dovuto all'alcol. L'allegoria di un mondo che ha perso la bussola della ragione. È il presagio della guerra che sta per scoppiare, con tutta la sua insensatezza, la sua devastazione, la sua ineluttabilità, il caos. Un'intera illusione. Sì, c'è questo piano che rimane per tutto il libro come un sottofondo, questa guerra imminente, questo presagio di, siamo nel 38, il presagio dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nel libro, tramite letture di giornali, comunicati stampa, al consolato, insomma, scopriamo delle leggi razziali contro gli ebrei, abbiamo continue notizie dall'Europa, viene citato spesso Hitler anche in modo così derisorio, il fratello del console che vuole partire per la Spagna come arruolato al fronte rivoluzionario, insomma, è tutta un sottofondo per cui il baratro e lo smarrimento di Jeffrey Firmin e degli altri personaggi sono un po' fanno da cassa di risonanza, presagio di questo grande dramma mondiale che sta per esplodere. Per avvenire. In tutto questo inferno, in questo abisso, leggendo ci chiediamo se per caso non ci sia la possibilità forse di una redenzione. Forse istintivamente la cerchiamo, questa speranza. Sì, infatti nella parte finale leggiamo: tu sei nato per camminare nella luce, a tuffare il capo fuori dal candore del cielo, brancoli in un elemento sconosciuto. Credi di essere perduto, ma non è così, perché gli spiriti della luce ti aiuteranno e ti porteranno verso l'alto, a dispetto di te stesso e di qualunque resistenza tu possa opporre. Si può leggere Sotto il vulcano anche come una maestosa allegoria moderna della redenzione, quindi un'opera faustiana, come recita la quarta di copertina. Vi leggiamo un'altra parte molto bella che si ricollega appunto a questa speranza di redenzione, di felicità. Ve ne prego, fate che io la renda felice, liberatemi di questa mia terribile tirannide, sono caduto in basso. Fatemi pure cadere più in basso ancora, ond'io possa riconoscere la verità. Insegnatemi ad amare di nuovo, ad amare la vita. Parlavamo di allegoria ma anche di simbologia. All'inizio vediamo la casa del console e della moglie caduta nel degrado, nell'incuria. Un po' come la cacciata dal giardino dell'Eden e alla fine l'incendio della casa nel sogno, i capitelli scrostati, le erbacce, le crepe, la sterpaglia che regna ovunque. E poi tutto un mondo animale sinistro che popola le taverne ubriache come i galli, che sono presagio della morte, i conigli, un cigno trafitto che precipita, i tori, gli scorpioni, gli avvoltoi, le galline, gli uccelli neri. È tutta una natura minacciosa, la polvere delle strade sterrate, il burrone, la folta giungla dei Tomalini, il cratere del vulcano, le nubi nere, la luce sinistra che immobilizza la città. I campi da tennis, dove le palle venivano scagliate in un mare d'errori. La neve rossa come sangue al tramonto sulla cima dei due vulcani. E poi c'è una scena bellissima che è quella della giostra alla fiera di Tomalin. Il console si stacca dal suo gruppo, quindi da Yvonne, Hugh, Laruel, e sale sulla ruota panoramica. E nel punto più in alto lui inizia a perdere tutto. Perde tutto dalle tasche, dal portafoglio, l'agenda, gli spiccioli, la pipa, perde gli occhiali, le chiavi, il bastone e anche il passaporto, insomma, tutto quello che aveva con sé. Ed è un po' come svuotato, derubato, ripulito per bene, perché poi vediamo anche questi bambini che si affrettano a raccogliere tutto e gli portano via praticamente tutto. Infatti leggiamo, tutto gli cadeva dalle tasche, gli era strappato via, rapinato con forza. E Oliviero, quando ho letto questo pezzo all'improvviso mi è tornato in mente il sogno del furto all'inizio di un altro grande libro di cui abbiamo parlato a maggio, che è il libro di Giorgio Vasta, Absolutely Nothing. La violenta sensazione della perdita, o comunque dell'aver subito un furto, qualcosa di insopportabile, inaccettabile e fuori dal proprio controllo. Sì Silvia, con le parole di un grande studioso dell'opera di Lorenzo Golino, che recita così: di volta in volta, definito inno alla vita, inno alla morte, poema dello sradicamento, creaturale, cantico d'amore, viaggio nostalgico alla ricerca del sacro, allegoria moderna della redenzione, si può aggiungere ciò che ne disse Lori medesimo. Sinfonia d'opera o film d'avventura, una profezia, un monito politico, un criptogramma, una musica hot, una canzone, una tragedia, una commedia, una farsa e così via. E ve ne abbiamo parlato perché Sotto il vulcano può essere anche visto come un viaggio catartico, alla fine, nell'oscuro abisso di un uomo, di quest'uomo in particolare, che però può essere ognuno di noi in momenti particolari della vita. Premettiamo, la lettura è senza dubbio complessa, a volte pare anche ostica, però così come è complesso entrare in contatto con la coscienza nuda e cruda di un qualsiasi altro essere umano. Sì Silvia, è una lettura impegnativa, non facile, neanche spensierata, che però non equivale a pesantezza. Esatto, richiede però un certo sforzo. Poi le cose complesse, intense, ricche sono spesso impegnative, ma quello che noi lettori sentiamo durante e a fine lettura è ricchezza di sentimenti, emozioni, visioni, prospettive. Impariamo a empatizzare con l'altro da noi, sentiamo i presagi, le inquietudini, impariamo a leggerle, interpretarle, dare significato in un magma di complessità. La grande letteratura è capace di questo. Le cose impegnative alla lunga ripagano in consapevolezza di sé e degli altri. Ne possiamo uscire sconvolti, è vero, ma anche molto cambiati e sicuramente più consci di noi stessi. Ecco, bene, questo è molto bello, più consci di noi stessi, nonostante la complessità. E poi volevamo dire anche due cose sulla scrittura, che comunque ridà è proprio il piacere della lettura e della grande letteratura, una scrittura così ricca, barocca, intensa, maestosa. Frasi come: cupi nuvoloni si precipitavano a sud, il sole rovesciava sui campi una colata di vetro fuso, i vulcani avevano assunto un aspetto terrificante nello scomposto tramonto. Ecco, potremmo continuare a leggervi parti che abbiamo sottolineato, trascritto, ripetuto in mente, mandato ad amici, amiche, insomma, ma lasciamo a voi il piacere della scoperta, della lettura di questo grande, grandissimo libro, e quindi vi consigliamo di riscoprirlo, di amarlo come abbiamo fatto noi, e poi di rileggerlo ancora, cercare di capirlo, e capirlo male, e poi capirlo bene, insomma. E con questo invito vi salutiamo, vi diamo appuntamento sempre mercoledì prossimo su Radio Città Fujiko alle ore 13 con una nuova puntata di 42 La Risposta. Ciao a tutti, ciao Silvia. Vi salutiamo con l'ultimo pezzo di questa puntata, a proposito di amore, vi facciamo ascoltare Want Your Love dei Chromatics. Ciao a tutti e a tutti, alla prossima.